tanto lo stesso, e non mi trovo di nuovo da solo. Mi guardo allo specchio e mi sembro di gesso, giro e rigiro ansioso nel letto. Mi chiedo per caso se ho visto me stesso, poi scrivo canzoni che siano lamenti, e voglia di mettere tutto in eccesso. Vita, cosa mi fai? Vita, cosa mi dai? Mi gratto da solo con il mio gatto, i ricordi feriscono più di tutto il resto. Vorrei poter dire adesso li butto, ma non è così che risolvere tutto. Allora mi impegno per cercare di capire, mi accorgo di avere ben poco da dire. Cerco qualcuno di cui voglio parlare, ma non c'è nessuno che vuol starmi a sentire. Vita, cosa mi fai? Vita, cosa mi dai? E dimmi chi sei, da quanto tempo sei lì? Di nuovo riflesso allo specchio, osservo curioso ogni piccolo gesto. È chiaro che qui bisogna chiedere permesso, anche soltanto per essere te stesso. Infilo i calzoni di corsa, poi esco. La smania che ho è la stessa di adesso. Vita, cosa mi fai? Vita, cosa mi dai? E dimmi chi sei,